gana hawa hati yakin. Ya chole hula. Hai hai shanti hai tala kutina bagi korang. Hauan mani poi mena imu apo pombe guri ha ande gonde ajero via hasin wa ke talla sa chine to ya de to a e ke itu piniki kira pora ja u hon che ambo di to va Thank you.